le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Sulla Grecia si tenta una trattativa all'ultimo minuto, oggi scade il termine, per il pagamento al Fondo Monetario Internazionale. Juncker lancia un appello. Renzi al Sole 24 Ore: siamo fuori dalla linea del fuoco, Bruxelles rispetta il referendum di Atene ma i greci abbiano chiare le conseguenze. Lavoro: cresce il numero di occupati, 63.000 in più nell'ultimo mese, disoccupazione stabile al 12,4%, ma cala quella di giovani e donne. 10 milioni di euro per tacere, tanto secondo i PM Silvio Berlusconi avrebbe pagato le olgettine, 7 milioni solo per rubi. In Europa da giugno 2017 sparirà il roaming internazionale, si potrà telefonare, mandare sms, navigare su internet alla stessa tariffa nazionale. Sequestro di alcune aree Fincantieri a Monfalcone, fermo il cantiere dove si stanno realizzando 3 navi da crociera e dove lavorano 4.500 persone. 100.000 euro per ogni partita comprata, ecco le ammissioni del patron del Catania Pulvirenti, ora cosa succederà alla Serie B? Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci. Il numero di sms durante la diretta è il 349-238-6666. Oggi vi trasmettiamo, così come faremo tutta la settimana e come fanno molte trasmissioni di Radio 24 in diretta da Expo a Milano. Se volete venirci a trovare, siamo al padiglione Cibus e Italia, il padiglione di Federalimentare. L'ingresso, se volete, il più semplice è quello dell'entrata Roserio. Iniziamo parlando naturalmente di Grecia. Oggi è la giornata nella quale il paese non dovrebbe restituire, e forse non restituirà, i soldi al Fondo Monetario Internazionale, 1,5 miliardi circa, mentre si avvicina il referendum sulle proposte della ex Troica indetto dall'esecutivo, che preme perché la proposta europea sia respinta, ma arriva anche un tentativo di mediazione all'ultimo minuto. Gli aggiornamenti con Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone, ai nostri ascoltatori. Allora, le carte in tavola tornano a mescolarsi. Ieri sera l'appello al no fatto in diretta televisiva dal premier Tsipras e le migliaia di persone in piazza Sindagma. Questa mattina le voci invece di un'offerta dell'ultimo minuto avanzata dal presidente della Commissione europea Juncker per arrivare a un accordo entro la mezzanotte di oggi, quando appunto scadrà il piano di aiuti. Questo è quanto riferiscono fonti europee elleniche citate dal quotidiano Katimerini e confermate anche dal vicepresidente del Parlamento europeo Pittella. Se Tsipras accettasse l'offerta dovrebbe farlo per iscritto entro oggi, in tempo per convocare un Eurogruppo di emergenza già giovedì e approvare l'intesa. Da quel poco che si sa, l'offerta di Juncker ricalcherebbe l'ultima bozza presentata dai creditori domenica sera, anche se a quel tavolo non era già più presente la delegazione ellenica e non è ancora chiaro se ci siano state ulteriori modifiche nella proposta di Juncker. Comunque accoglierebbe la struttura dell'IVA così come formulata da Atene, quindi i 3 scaglioni con hotel al 13%, così come chiedeva l'esecutivo, e se fosse accettata da Tsipras i ministri delle finanze dell'Eurozona potrebbero decidere di applicare già da ottobre un impegno che era già stato preso in passato: la dilazione nel pagamento delle scadenze del debito, l'abbassamento dei tassi di interesse e l'estensione di una moratoria sui pagamenti verso la zona euro. Sempre secondo indiscrezioni, nell'offerta Juncker avrebbe inserito anche il sostegno al sì al referendum da parte di Tsipras. Secondo quanto scrive Katimerini, smentendo così la notizia del rifiuto tout court da parte dell'esecutivo, Tsipras starebbe riconsiderando il pacchetto perché ci sono forti pressioni non solo per la situazione, ricordiamo le banche chiuse, la borsa chiusa, ma ci sarebbe una forte pressione anche da parte di alcuni ministri che avrebbero già minacciato le proprie dimissioni se non ci sarà appunto un riesame dell'offerta fatta da Juncker proprio dall'esecutivo ellenico. Per il momento è tutto. E grazie Valeria De Rosa. Non esauriremo qua l'argomento Grecia, ci sposteremo più avanti ad Atene, parleremo anche con Gianni Pittella, il capogruppo socialista e vicepresidente del Parlamento europeo, che per primo ha dato la notizia di questo nuovo lavoro sull'accordo, di questo nuovo tentativo di intesa. Ma intanto andiamo a vedere che cosa succede sui mercati. Qua accanto a me, nel nostro studio qua ad Expo, c'è Deborah Rossani. Deborah. Allora, abbiamo questa mattina una discreta volatilità sui mercati del vecchio continente. Presidente, che comunque tentano un po' di recuperare ed arginare le enormi perdite messe a segno ieri. Ricordiamo che è stata una giornata davvero di profondo rosso. I listini del vecchio continente hanno bruciato 287 miliardi di capitalizzazione. In questo momento abbiamo Francoforte negativa meno 0,3, Parigi meno 0,30, Milano invece sorprende un po', volatile anche Piazza Affari stamattina, ma adesso mette a segno un recupero di mezzo punto percentuale. Quello che va segnalato stamane è l'effetto Grecia sulle aste dei titoli di Stato che il Tesoro aveva in programma di effettuare in questa giornata. Quasi 7 miliardi di euro di titoli messi sul mercato, ne sono stati piazzati 6,7 miliardi, ma la sorpresa è sui rendimenti, che sono tutti in discreto aumento e si sono riportati per alcune scadenze sui livelli di un anno fa. Per il BTP a 5 anni, per esempio, ne sono stati collocati 1,5 miliardi. Il rendimento è salito all'1,25%, livello che non si vedeva dal 27 giugno del 2014. Per il BTP a 10 anni abbiamo il rendimento al 2,35%, livello che non si vedeva dal settembre del 2014. Anche il CCT a 7 anni, indicizzato all'Euribor, abbiamo una crescita del rendimento all'1,08%, che pure non si registrava da mesi. Gli operatori segnalano che la domanda è stata piuttosto sostenuta. C'è anche da dire che forse l'occasione greca è quella di normalizzare un po' il mercato obbligazionario, visto che i rendimenti dei titoli di Stato viaggiavano su livelli estremamente bassi. L'ultima segnalazione: con le aste di oggi il Tesoro italiano ha collocato il 60% dell'offerta prevista per tutto il 2015 e lo spread viaggia a 158 punti base. Simone, direi che è tutto. Grazie Deborah per questi aggiornamenti. Torneremo come sempre sui mercati in diretta alle 13.30 con i colleghi di Radio Cor, Il Sole 24 Ore. Intanto le reazioni, a partire dalle parole che in parte già vi riferivamo nei nostri titoli, del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che è intervistato oggi dal Sole 24 Ore. Dice: noi non siamo sulla linea del fuoco. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Il governo rassicura di fatto sulla stabilità del nostro paese qualora si avverasse l'ipotesi di un'uscita della Grecia dall'euro. A parlare, come anticipavi Simone, allora il Presidente del Consiglio Renzi, l'Italia è già fuori dalla linea del fuoco dei rischi di un eventuale default greco, assicura il Premier in un'intervista al direttore del Sole 24 Ore napoletano. Abbiamo iniziato un percorso coraggioso di riforme strutturali, aggiunge Renzi, l'economia sta tornando alla crescita e l'ombrello della BCE ci mette al riparo. Per quanto riguarda invece il ruolo nella trattativa sulla crisi greca, Germania e Francia, sottolinea Renzi, sono in prima linea perché hanno una consolidata relazione da sempre. Qual è il nostro posto, dice Renzi? In passato era tra i problemi, adesso è tra quelli che provano a risolvere i problemi. Altro capitolo, la prossima manovra economica. Il Presidente del Consiglio rassicura, le clausole di salvaguardia non scatteranno. Certo non sarà semplice, aggiunge Renzi, visti i tanti nodi da sciogliere tra IVA, adeguamento pensioni, rinnovo del contratto del pubblico impiego. Ma nel 2016, dice Renzi, scommetto su un'ulteriore riduzione del carico fiscale. Di Grecia parla infine anche il ministro dell'economia Padoan, che dice: qualunque sia il risultato della crisi è indispensabile accelerare l'integrazione dell'unione monetaria. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Intanto arrivano dall'Italia dati positivi, sono quelli sull'occupazione che indicano una crescita del numero di persone con un impiego e calano i senza lavoro tra giovani e donne. Dopo i segnali positivi di febbraio e marzo e la battuta d'arresto di aprile, nel mese di maggio il tasso di disoccupazione in Italia resta stabile al 12,4%, secondo i primi dati Istat, però sono 59.000 le persone senza lavoro in meno rispetto allo scorso anno. Riprendono a crescere invece, dopo 4 mesi di stop, il numero degli inattivi, 36.000 in un mese che non hanno né cercano un impiego. Se parliamo di occupazione, nessun segnale positivo dal mercato del lavoro italiano, perché sono scesi di 63.000 unità gli occupati su base congiunturale, mentre il segno più si registra solo su base tendenziale. Rispetto al maggio 2014, infatti, 60.000 i neoassunti. E se per gli under 25 cala il tasso di disoccupazione dello 0,1% rispetto ad aprile, i 20.000 giovani in meno in cerca di un impiego non sono dovuti a neoassunzioni, precisa l'Istat, ma al crescere del numero degli inattivi. Stessa situazione per la disoccupazione femminile, che diminuisce solo per l'aumentare di donne inattive. Pochi cambiamenti sul fronte lavoro anche nell'eurozona, comunica Eurostat. Il paese più virtuoso, la Germania, con un tasso di disoccupazione al 4,7%, agli ultimi posti la Grecia con 25,6 punti percentuali. Camilla Romana Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Europa si divide sulla Grecia, come abbiamo detto, sembra intanto trovare un accordo su altri punti, seppur ovviamente meno importanti, ma significativi per i consumatori, come quello della telefonia. È stato raggiunto appunto tra i paesi dell'Unione l'accordo sul roaming. Risparmi in vista per le telefonate dei cittadini europei. A tarda notte, dopo ore di discussioni, l'Europa è riuscita a trovare un accordo preliminare in vista dell'eliminazione definitiva del roaming e dei suoi costi generati sulla telefonia mobile. L'accordo dovrebbe entrare in vigore entro il mese di giugno del 2017 nell'insieme dei 28 paesi membri. La decisione tocca le tasche di chi si sposta in Europa, secondo Francesco Sacco, docente di strategia aziendale in Bocconi, componente del tavolo permanente per l'innovazione del governo italiano. Oggi quando si va all'estero, non dico tanto per i costi delle telefonate che si sono molto abbassati, ma quanto per i costi della connessione, per chi è spesso all'estero i risparmi sono notevoli, parliamo non di un euro o due, ma di decine e decine di euro. L'Europa raccomanda anche agli operatori di telecomunicazioni di trattare su una base univoca il traffico su internet e di proibire il blocco degli accessi, salvo che per contrastare i cyberattacchi. Dal punto di vista del cittadino, avere la certezza che i suoi dati verranno trattati come i dati di tutti gli altri, che è un fatto di democrazia, un fatto di inclusione. Non ci deve essere una internet a due velocità in cui la velocità dipende dal portafoglio. La definizione dei dettagli tecnici alle prossime settimane sotto la nuova presidenza lussemburghese che raccoglie il testimone dal 1 luglio. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stata chiusa a Milano l'inchiesta del processo cosiddetto Ruby Ter, ossia quello che riguarda i soldi che Silvio Berlusconi avrebbe dato alle ragazze che frequentavano Arcore in cambio del silenzio. Si andrebbe verso un nuovo processo. Secondo il pubblico ministero, l'ex cavaliere avrebbe corrotto 21 testimoni appunto al processo riguardante le serate di Arcore e offerto complessivamente 10 milioni e 7 milioni alla marocchina Karima El Maroug, meglio nota come Ruby. E sempre dalla cronaca giudiziaria milanese arriva notizia che il GUP di Milano Fabio Antezza avrebbe accolto la richiesta di patteggiamento di Gianna Nannini nel procedimento che la vede accusata di presunta evasione fiscale da 3.750.000 euro. Nei giorni scorsi il legale della rockstar, l'avvocato Giulia Bongiorno, avrebbe raggiunto l'accordo con la procura. Parliamo adesso invece di una decisione della Corte di Cassazione che sta creando problemi ad uno stabilimento italiano, e parliamo dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. È stato di fatto fermato il cantiere dove si stanno realizzando 3 navi da crociera. Ci colleghiamo con Raul De Forcade del Sole 24 Ore. Raul, buongiorno. Buongiorno, ecco. Allora, qual è la vicenda? La vicenda è molto particolare perché in pratica il carabinieri dietro ordine della procura di Gorizia hanno sequestrato alcune aree di stoccaggio di materiale di lavorazione di questo cantiere, e questo ha provocato il fatto che il cantiere non possa in questo momento andare avanti con le lavorazioni abituali. Secondo Fincantieri ha detto: senza questi spazi noi non possiamo procedere con le lavorazioni delle 3 navi che sono in lavorazione. È una vicenda lunga, Raul, che è arrivata fino in Cassazione, perché in realtà l'azienda aveva ottenuto 2 vittorie presso il giudice ordinario e in corte d'appello, no? Esatto. Infatti è singolare anche questo, perché in qualche modo cos'era successo? C'erano stati già 2 gradi di giudizio, cioè c'era stato la prima, anche il GIP aveva dato in un primo tempo, aveva dato nella prima fase un parere negativo rispetto al sequestro, e poi si è andata avanti con la procura che faceva ricorso. Alla fine la procura, facendo quest'ultimo ricorso in Cassazione, ha ottenuto dalla Cassazione appunto la possibilità di in realtà di ritornare al sequestro delle aree. Che materiali ci sono in questi depositi di stoccaggio, Raul? Ma ecco, io adesso dirli con precisione è difficile, però sono aree, a quanto sono venuto a sapere, che riguardano gli allestimenti interni delle navi, la pitturazione, la prefabbricazione di alcune cose. Insomma, diciamo che sono chiaramente dei materiali, non so, il pezzo di moquette che viene tagliato quando si fa la nave, il pezzo di altro materiale che viene, ecco, cioè quello che conta dire probabilmente è che non sono materiali, voglio dire, radioattivi o di particolare pericolo. Certamente sono materiali che vanno trattati con una certa attenzione, E secondo appunto la procura ci sarebbero delle carenze a quanto sembra nello stoccaggio, nei permessi dati alle imprese che di subfornitura per stoccarli. Ecco, è una questione di questo genere. Ultima domanda, ferma a questo punto la lavorazione di 3 navi da crociera per uno stabilimento che impiega quante persone? Appunto, che questo stabilimento per 4.500 persone fra diretti e indotto, quindi è un numero ingente, uno stabilimento importantissimo per la produzione di Fincantieri. 3 navi da crociera, bisogna dire anche che sono navi di grande valore, cioè navi importanti, 2 navi, una nave della Carnival Vista, una nave del gruppo Princess Cruise che fa parte sempre di Carnival, e sono navi che queste qui valgono solo l'una 500-600 milioni l'una di euro. In più c'è la nuovissima nave della MSC che per la prima volta era tornata a lavorare, era andata a lavorare con Fincantieri, perché di solito MSC ha fatto le navi in altri cantieri europei, ha fatto un ordine a Fincantieri, è stato tagliato proprio nelle scorse settimane, è stato tagliato la prima parte della nave, il primo blocco, il taglio del primo pezzo d'acciaio della nave. Questa nave ha un valore di 700 milioni di euro. Questo per renderci conto un po' delle cifre di cui stiamo parlando, ecco. Grazie a Raul De Forcade del Sole 24 Ore per questo racconto e per questi chiarimenti. È stato presentato oggi a Roma il rapporto sulle ecomafie. Ci dà qualche dettaglio, qualche numero, Francesco De Remigis, buongiorno. Sì, sono stati circa 80 al giorno i cosiddetti ecoreati censiti da Legambiente nel 2014, 29.293, un fatturato criminale che si aggira attorno ai 22 miliardi e sono 7 in più rispetto all'anno precedente. Numeri eclatanti nel settore dell'agroalimentare, sono quasi 8.000 gli illeciti individuati per un fatturato di 4,3 miliardi di euro. Aumentano anche le infrazioni nel settore rifiuti, più 26%, e del cemento con un più 4,3%. E in testa alla classifica regionale degli illeciti c'è la Puglia, ma cresce l'incidenza criminale in tutte le 4 regioni a tradizionale presenza mafiosa, quindi Puglia, Sicilia, Campania e Calabria, dove si registrano più della metà del numero complessivo delle infrazioni. Ma non c'è da essere sereni neppure nelle altre zone del paese, con la Lombardia che è per esempio al top per le indagini sulla corruzione, e nel 2014 è cresciuto anche il racket degli animali, che colleziona 7.846 reati. Il rapporto ecomafia del 2015 si sofferma poi anche sulla cosiddetta archeomafia, furti di opere d'arte trafugate spesso da siti protetti, e qui è il Lazio che si conferma la regione con il maggior numero di indagini in corso, seguita da Emilia-Romagna, Campania e Toscana. Tra le novità, quella che riguarda i clan invece del sud Italia, che non sono più attribuibili soltanto ad una zona geografica. Dalle indagini è infatti emerso che sono diventati ormai transnazionali, non più entro i nostri confini, e che hanno creato una vera e propria filiera che non riguarda solo personaggi legati alla criminalità organizzata, ma sempre di più anche politici locali, imprenditori edili e anche autotrasportatori, per quanto riguarda il fenomeno purtroppo della spazzatura sostanzialmente. Quindi una novità. Grazie. È tutto. Grazie. Grazie a Francesco De Remigis per questo aggiornamento. Noi adesso ci fermiamo, poi ci ritroviamo subito dopo e andremo a collegarci con Atene per sentire come stanno vivendo queste ore i greci, soprattutto appunto nella loro capitale, ma dopo il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Grecia, si starebbe tentando un'ultima mediazione tra l'Europa ed Atene. Renzi al Sole 24 Ore, siamo fuori dalla linea del fuoco, grande volatilità oggi sui mercati. Lavoro, cresce il numero di occupati, 63.000 in più nell'ultimo mese. Sequestro di alcune aree Fincantieri a Monfalcone, fermo lo stabilimento dove si stanno realizzando 3 navi da crociera. E torniamo dunque alla Grecia e andiamo ad Atene dall'inviato del Sole 24 Ore, Vittorio Darold. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi. La prima domanda che ti voglio fare è una domanda da cronista su come si stanno vivendo queste ore molto intense ad Atene. Sì, la situazione è ancora abbastanza legata al fatto dei controlli, di questi controlli sui capitali, per cui ci sono code davanti ai bancomat anche di notte, perché la gente appunto deve rifornirsi di contante, questi 60 euro, poi è esploso il problema dei pensionati che non hanno i carte di credito o bancomat, che quindi essendo le banche chiuse non avevano nessuna possibilità di accedere al contante, e quindi sembra che domani apriranno degli sportelli specifici per queste persone fornendo loro una carta di credito ad hoc. Una situazione quindi che rasenta un po' un'economia di guerra per certi aspetti, perché c'è appunto disagio per questo uso del contante, anche se le file sono ordinate, non ci sono disordini, la situazione è abbastanza tranquilla dal punto di vista dell'ordine pubblico. Questa sera ci sarà una manifestazione a favore del sì, di questo referendum, che però è ancora un po' incerto, certo, Vittorio, ci sono queste ultime notizie che ancora una volta fanno parte di questo gioco che più di una volta con te abbiamo commentato anche a questi microfoni, a microfoni di Focus Economia, insomma questo tira e molla che in realtà prosegue fino all'ultimo minuto. Sì, esattamente, adesso è giunta appunto questa ultima notizia che Juncker, il presidente della Commissione, avrebbe offerto una nuova proposta con quel sospirato, agognato obiettivo da parte di Tsipras, che era quello di inserire nel piano una riduzione o comunque una ristrutturazione di questo enorme debito che la Grecia ha sulle spalle. Questo potrebbe essere un elemento di svolta, perché era l'elemento che avrebbe consentito. Era quello che loro volevano, perdonami Vittorio, era quello che i greci volevano fin dall'inizio in realtà. Sì, esattamente, volevano cioè tornare con ancora sì il pacchetto di austerità, di aumenti delle tasse, di riduzione delle spese pubbliche, delle pensioni, ma con un obiettivo nuovo, diverso, cioè con una riduzione del peso degli interessi o un allungamento del peso del debito che potesse in qualche modo alleviare e dare un obiettivo, una svolta alla situazione, alla crisi greca che, lo ricordo, dura da 5 anni. Questo era l'obiettivo della delegazione greca. Nel frattempo il ministro delle finanze greco Varoufakis ha confermato, come ci attendevamo, che Atene non intende pagare gli 1,6 miliardi di euro in scadenza verso il Fondo Monetario Internazionale. Nel ringraziare Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore ad Atene, e buon lavoro Vittorio, saluto Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento Europeo. Buongiorno Pittella. Sì, ma io parlo come capogruppo dei socialisti. Come capogruppo, nella fattispecie come capogruppo dei socialisti, sì, naturalmente. Senta Pittella, allora ho visto che lei ha dato notizia, come dire, di questa riapertura delle trattative con la Grecia. I termini sono quelli che più o meno ci ha indicato Darold, non so se sei riuscito a sentirlo. Io ho ascoltato soltanto l'ultima parte, mi dispiace. Per quella, sì, relativa al debito. Esatto, un'offerta sulla ristrutturazione del debito greco. Ma questo ovviamente è una richiesta che viene dal governo greco, e tra l'altro l'Eurogruppo ha già preparato una proposta sul debito, quindi insomma potrebbe essere un punto da inserire in un nuovo accordo, ma ci sono anche altri punti che sono stati offerti dal presidente Juncker, quello relativo alle pensioni, le pensioni minime per esempio, quello che è relativo al sostegno del turismo, insomma ci sono varie cose sulle quali si sta discutendo. Il fatto nuovo è che si sta discutendo dopo che si era chiusa completamente ogni strada, ogni porta, ogni canale di comunicazione, l'abbiamo riaperto noi. Con una mia proposta ieri alla conferenza dei leader del Parlamento europeo, accolta immediatamente dal presidente Schulz, e da quel momento è ripartito il confronto. Ora io non so se da questo confronto si scaturirà poi un esito miracolosamente favorevole, però già il fatto che si sia ripreso a discutere e che ci sia sul tavolo una proposta concreta di possibile accordo mi sembra una cosa importantissima. Questo sicuramente. Non teme però Pittella che si sia arrivati un po' troppo in là a questo punto con il referendum greco? A questo per il problema prima, ma questo non si è fatto per responsabilità prevalentemente del governo greco, che all'inizio, devo dire, ha lavorato più sull'aspetto propagandistico che sull'aspetto concreto che deve curare invece un governo. Poi Varoufakis è andato via quando ancora era in atto un confronto, c'era una proposta che il presidente Juncker stava facendo e non è stata presa in considerazione. Insomma, questo è, diciamo, c'è tant'è, un po' tant'è vero, di tant'è vero, mi scusi, tant'è vero Pittella, mi scusi, che i greci andranno a votare sulla precedente proposta, quella di quando erano ancora al tavolo negoziale, e non sull'ultima, quella che è arrivata in extremis sostanzialmente, no? Un governante che vuole bene al paese pensa di stare fino all'ultimo a negoziare, ma comunque io non voglio fare polemica con nessuno, sono un interlocutore di Tsipras, sono uno dei pochi che ci sta parlando, sto dando una mano perché il gioco non è il destino di Tsipras o di un governo, di un colore politico, ma il destino dei cittadini greci e anche per ciò che ci riguarda dei cittadini europei. Quindi adesso bando alle polemiche, si poteva fare prima, sicuramente si doveva fare prima. Il Parlamento lo ha chiesto tantissime volte e purtroppo non si è fatto. Cerchiamo di farlo, anzi, cercassero di farlo, perché non dipende da noi. Noi ce la stiamo mettendo tutta perché produca un risultato. Lei che quindi ha, come ci diceva, dei contatti abbastanza forti con i greci, ci conferma che la proposta in questo momento viene presa in considerazione, anche se non magari direttamente esaminata, cioè ci si sta ragionando sopra? Sì, le posso confermare che stamattina io ho avuto contatti col governo greco e loro stanno lavorando sulla proposta. Ora, ripeto, incrocio le dita, continuo a spingere in questa direzione, a fare appello alla responsabilità. Poi una proposta si può anche emendare, non è che per forza si deve prendere o respingere così com'è. Dico solo se ci sono degli emendamenti, si presentassero degli emendamenti, ma non facciamo cadere questa ultima chance che c'è prima del referendum. La ringrazio, grazie a Gianni Pittella, capogruppo socialista al Parlamento europeo. Noi adesso ci fermiamo, sentiamo di nuovo come stanno andando i mercati, ci ritroviamo subito dopo, parleremo di terrorismo, torneremo in Tunisia e poi, come vi abbiamo detto, siamo in diretta da Cibus Italia, il padiglione di Federalimentare ad Expo, parleremo proprio di alimentare e di aziende italiane. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È arrivata una nuova proposta dell'Europa alla Grecia e il governo greco la sta esaminando, l'avete sentito, la conferma poco fa è arrivata dal capogruppo socialista al Parlamento europeo Gianni Pittella a questi microfoni. Renzi al Sole 24 Ore, siamo fuori dalla linea del fuoco, Bruxelles rispetta il referendum di Atene, ma i greci abbiano chiare le conseguenze. C'è il dato sugli occupati, il numero di occupati cresce, 63.000 in più nell'ultimo mese, disoccupazione stabile al 12,4%, ma cala quella dei giovani e delle donne. 100.000 euro per ogni partita comprata, ecco le ammissioni del patron del Catania Pulvirenti, ci torneremo tra poco, intanto la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Adesso parliamo di terrorismo internazionale, di attentati, innanzitutto dandovi una notizia che arriva dall'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani siriano, è un'organizzazione non governativa, spesso le informazioni che arrivano dalla Siria filtrano proprio da qua e quindi vediamo la notizia com'è arrivata da questa ONG che al momento non ha conferme. Due donne sarebbero state decapitate in Siria dall'ISIS perché erano state condannate a morte per stregoneria. Con loro sarebbero stati decapitati anche i rispettivi mariti. Le esecuzioni sarebbero avvenute nella città di Deir az-Zor e ad Al-Maidin, nella stessa provincia. E a quattro giorni dagli attacchi in Tunisia scattano i primi arresti, mentre la Gran Bretagna partecipa alle indagini e si fanno i conti su quanto potrà costare per il turismo. Il presidente americano Barack Obama ha telefonato al collega tunisino Essebsi per ribadire il sostegno degli Stati Uniti alla Tunisia dopo quanto successo a Sousse. Obama ha sottolineato la necessità di intensificare la cooperazione tra i due paesi nella lotta contro quello che ha definito un flagello, mentre la Tunisia si appresta entro il 25 luglio ad approvare la nuova legge antiterrorismo. Sono 600 gli uomini mobilitati da Scotland Yard per seguire il caso della strage di Sousse. Il Regno Unito è infatti il paese che conta il maggior numero di vittime. Una strage che non sarebbe opera di un lupo solitario, ma di una cellula. Alcune persone sono già state arrestate perché ritenute, a vario titolo, implicate. Ulteriori rivelazioni cominciano ad emergere anche sul passato del killer. Aveva lavorato come animatore nei resort di Sousse, forse anche in quello dell'hotel Rue Imperial. L'impatto economico per il paese potrebbe essere di oltre 450 milioni di euro nel 2015. Tanti infatti i turisti che stanno rientrando, tra loro nel fine settimana almeno 1.400 italiani. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo, come vi abbiamo raccontato già dall'inizio, in diretta da Expo, dal padiglione Cibus e Italia di Federalimentare. Dunque adesso apriamo uno spazio dedicato proprio ai temi di Expo. Tra un attimo andremo a parlare delle industrie italiane, di come si muovono sui mercati, ma prima vogliamo occuparci dei dati diffusi questa mattina a proposito della cosiddetta povertà alimentare. Povertà alimentare che riguarda 5 milioni e mezzo di persone in Italia. Non sono persone che rischiano la fame, ma hanno carenze alimentari. Di questi 5 milioni, 1 milione e 300 mila sono minorenni. Qual è la causa? Evidentemente la disoccupazione, ovviamente la crisi economica, ma anche, come spesso abbiamo raccontato, i fallimenti familiari, i divorzi. Dal 2007 al 2013, questo anche dà anche la misura di quello che sta succedendo, sono aumentate da 15.000 a 17.000 le associazioni che si occupano di dare sostegno ai poveri. Andrea Giussani, presidente del Banco Alimentare, intervistato da Laura Bettini, spiega quali strutture immagina per cambiare rotta. Lei giustamente dice strutture sono un sostegno di programma, per esempio a tutti i discorsi che si stanno portando avanti sul reddito di inclusione sociale e in generale programmi che prevedono aiuti normativi e un sostegno non solo economico ma soprattutto di facilitazione procedurale, nel nostro caso nel recupero degli alimenti. Noi riteniamo che la povertà assoluta, 6 milioni di persone in Italia, parte dalla povertà alimentare. Aiutare con gli alimenti è il primo passo, quindi è su quel fuoco lì che dobbiamo giocare innanzitutto. Nel nostro censimento le associazioni che sono convenzionate con noi sostengono quasi 2 milioni di poveri assoluti, che sono circa un terzo della totale popolazione in povertà assoluta, quindi c'è ancora molto da fare. Certo, non ci siamo solo noi, per fortuna. Uno dei modi per combattere la povertà e anche la povertà alimentare è quello di creare ricchezza. Lo fanno sicuramente le molte aziende italiane che si muovono sui mercati internazionali, anche in questo settore. Nel settore agroalimentare saluto Fabio Antoldi, che è docente di strategia aziendale alla Cattolica, Università Cattolica di Milano, e direttore del CERSI, il Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale. Buongiorno professore e benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Avete realizzato una ricerca sulle migliori performance delle aziende alimentari italiane e i fattori che le hanno rese possibili. Al di là di elementi che già conoscevamo, come il fatto che il mercato domestico è rimasto invariato o si è contratto in maniera forte, c'è stata ovviamente una prevalenza di export, no? Nelle performance, nei risultati positivi di queste aziende. Come hanno reagito queste aziende che sono riuscite a resistere alla crisi? Ma direi complessivamente bene, se teniamo conto che l'analisi che è stata basata sui bilanci di 7 anni delle 448 imprese alimentari più importanti per fatturato in Italia mostrano una redditività operativa, un margine operativo lordo che si attesta mediamente sull'8.5, che è considerevole tenendo conto che si tratta di un settore maturo. Quindi direi che hanno performato molto bene, hanno saputo destreggiarsi come ricordava lei, su un mercato domestico boccheggiante, e invece hanno saputo in buona parte intercettare le opportunità all'estero. Ci dice però, professore, in che modo, cioè come sono riuscite a farlo, su cosa hanno puntato, quali sono state le strategie principali? Sì, certo. Innanzitutto la ricerca ci permette di avere un quadro più dettagliato comparto per comparto, perché in realtà noi siamo abituati a considerare l'industria alimentare come tutt'uno, in realtà i comparti performano in maniera molto differente, quindi sia in termini di crescita e quindi capacità di andare avanti, sia in termini di redditività e di generare quel valore che lei ricordava giustamente all'inizio, ci sono comparti che hanno performato molto bene, hanno cresciuto e mostrano livelli di redditività alti, facciamo qualche nome, la birra, i coloniali, i condimenti, la gastronomia, i piatti. Ci sono invece comparti che o non sono cresciuti o comunque mostrano segnali di redditività molto più bassi, tipo le carni e l'olio. La scelta è stata innanzitutto quella di un'internazionalizzazione non estemporanea. La maggior parte delle imprese che hanno performance alte sono imprese già presenti sui mercati internazionali da più di 15 anni e questo mostra il fatto che l'internazionalizzazione non può essere semplicemente un ripiego legato al crollo dei mercati domestici. L'altro tema rilevante è quello dell'innovazione di prodotto, che nel caso ovviamente del prodotto alimentare non è un'innovazione di natura merceologica, ma di servizio e funzionale legata al packaging piuttosto che all'applicazione. Il terzo tema rilevante, che emerge chiaramente dai dati statistici di bilancio, è l'elemento delle dimensioni aziendali. C'è una correlazione abbastanza significativa tra l'essere di dimensioni superiori e i livelli di redditività. La ringrazio, grazie al professor Fabio Antoldi, docente di strategia aziendale all'Università Cattolica di Milano e direttore del CERSI, il Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale, per questa ricerca interessante nella quale si indicano anche quali sono i mercati strategici per il futuro: Germania, Francia, Stati Uniti, Cina e Regno Unito. Grazie dunque al professor Antoldi. Noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi, come sempre, sentiremo Mario Platero.